Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno se ci ascoltate la mattina, buon proseguimento di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Chi vi parla è Roberto Galullo e vi ricordo subito l'indirizzo mail della nostra trasmissione, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, quindi dovete andare su internet, si chiama Guardie o Ladri. Se andate su un qualunque motore di ricerca lo trovate, digitate il mio cognome, la parola blog, lo trovate. Di cosa parlo? Ma di diritti violati e di criminalità organizzata, lo sapete ormai tutti, sono le mie due grandi passioni che conduco come inviato del Sole e qui in questa spettacolare radio, e quindi non posso che parlare di questo. Se interverrete nel mio blog a me farà davvero molto molto piacere. Allora, ieri, lo sapete, avete ascoltato una interessantissima discussione che abbiamo cominciato a fare sulla legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali. Ci siamo focalizzati e abbiamo cominciato ad approfondire un comma, il comma 4 dell'articolo 6. Stiamo parlando dell'obbligo, della facoltà dei comuni nel richiedere al ricoverato ultra 65enne o gravemente malato un'integrazione alla retta nel momento in cui questa persona gravemente malata, questo ultra 65enne che non è autosufficiente, viene accolto da queste strutture residenziali. Abbiamo sentito dalla voce dell'esperto dell'ADUC Mannini e del difensore civico della Regione Marche che sono moltissimi gli abusi che si commettono, perché i comuni molto spesso chiedono un'integrazione della retta. Chi la chiedono? Beh, è facile chiederlo ai familiari. Allora, per continuare a parlare di questo tema, io oggi ho chiamato altri due amministratori che hanno studiato il caso, lo hanno sollevato e lo stanno anche affrontando. L'uno è l'assessore provinciale al lavoro della provincia di Rovigo, Guglielmo Brusco. Buongiorno e benvenuto, Brusco. Buongiorno, buongiorno Roberto. E l'altra è l'assessore ai servizi sociali della Regione Piemonte, Teresa Angela Migliasso. Benvenuta, assessore. Grazie, grazie molto. Io direi proprio di passare la parola a Brusco. Allora, assessore, qual è la situazione nella sua provincia e perché ha deciso, insieme ad altri, di sollevare questo che lei chiama, e poi sentiremo anche l'assessore piemontese, un vero e proprio scandalo? Prego, Brusco. Sì, è uno scandalo che è iniziato cercando di sollevare le famiglie dei malati psichiatrici da questo onere. Cercando per i malati psichiatrici ho trovato che anche altre persone non autosufficienti, come gli over 65 non autosufficienti, non devono vedere l'integrazione della retta fatta dai familiari. Invece nel Veneto, nel civile grasso Veneto, questo sta succedendo a man bassa e sta portando, diciamo così, tante famiglie vicino anche alla rovina economica, per cui è da alcuni anni che mi sto battendo per questo obiettivo, che secondo me è un obiettivo di civiltà, e ho trovato fortunatamente per la strada tanti esempi positivi come quello della Regione Piemonte, che ha istituito a metà del 2007 un fondo per la non autosufficienza che permette ai familiari delle persone non autosufficienti ricoverate di non pagare questa retta, ma di farla pagare giustamente ai comuni. Ecco, lei ha introdotto, assessore Brusco, effettivamente molto bene l'argomento, ha continuato ad introdurlo, perché come dicevo ieri non è questa certamente l'ultima trasmissione, anzi proseguiremo ancora con questa tematica, perché abbiamo scoperto che i comuni, nella carenza di liquidità, nelle difficoltà in cui effettivamente si trova tutto il paese, sappiamo benissimo che la crisi non riguarda soltanto l'Italia, a questo punto fanno un passo indietro, cioè piuttosto che andare a costruire o comunque dare il via libera a strutture che possano accogliere questi anziani non autosufficienti, preferiscono lasciare il campo ai privati. Nulla di male, per carità, spesso sono strutture convenzionate, fatto sta che però gli abusi continuano a crescere. Lei ha fatto bene a chiamare in causa la Regione Piemonte, perché la Regione Piemonte è una delle pochissime regioni che sta intervenendo presso i comuni per cercare di fare chiarezza su questa legge. Ed allora io passo subito la parola all'assessore Migliasso per cercare di capire che cosa accade nel civile e forse meno grasso del Veneto in questo momento, Piemonte. Prego, assessore. Grazie. Come tutti sanno, la crisi batte duro su tutte le regioni e su tutti i comuni, ma io credo che i diritti, quando sono esigibili da parte dei cittadini, debbano anche costringere gli amministratori locali, pur nelle grandi difficoltà e in costanza di una riduzione da parte del governo del fondo sociale, del fondo nazionale per le politiche sociali, di compiere comunque il loro dovere facendo delle scelte che una volta si chiamavano scelte prioritarie. Allora, noi abbiamo intanto, va bene precisarlo, un sistema regionale avendo 1206 comuni, la maggior parte dei quali piccoli e piccolissimi, che gestisce i servizi sociali, il complesso dei servizi sociali, dalle prestazioni di carattere economico fino appunto all'ospitalità nelle case di riposo, nelle residenze sanitarie assistenziali, gestito da consorzi socioassistenziali. Quindi cioè sono più comuni, esatto. Associazioni volontarie di comuni che versano agli organi del consorzio la quota pro capite ogni anno, che viene integrata poi abbondantemente dalla Regione Piemonte con il suo fondo regionale a destinazione indistinta. Ecco, la fermerei un secondo, assessore, per ricapitolare. Quindi in Piemonte accade questo, che fatto 100 la quota che deve essere versata per assistere la persona, 50 lo passa lo Stato attraverso il servizio sanitario nazionale, il restante 50% per una parte intervenite voi con il fondo, mi pare di capire, e per la restante parte? Allora, non è proprio prego, così. Prego, corregga pure. Allora, continuo nel ragionamento per spiegarmi meglio. Allora, il sistema dei servizi sociali in Piemonte è gestito da questi consorzi socioassistenziali che traggono le risorse dai finanziamenti che ogni anno i comuni versano, una quota pro capite, e poi da questo fondo regionale per le politiche sociali, che viene integrato di volta in volta con quota del fondo nazionale quando arriva, e che costituisce, diciamo, il capitale di cui può disporre quel consorzio socioassistenziale. Ah, molto bene. Per erogare tutte le prestazioni di carattere economico e sotto forma di servizi che servono alla popolazione. Ecco, ma per far capire meglio al nostro radioascoltatore, esatto, vuol dire quindi che un anziano ultra 65enne, un nonnino di 85 anni che viene ricoverato in una struttura del Piemonte non integra nulla nel momento in cui viene ricoverato lui o i suoi familiari? Allora, noi abbiamo assunto una delibera a metà, come diceva giustamente lei, del 2007, con la quale esentiamo dalla contribuzione i cosiddetti parenti tenuti agli alimenti a norma del codice civile. Questo perché? Perché sono soltanto le persone interessate, quindi in questo caso gli anziani, e non gli enti, che possono chiedere ai parenti la contribuzione. Ah, benissimo, quindi vuol dire che il figlio... Se un anziano, il nonnino di 85 anni, vuole che il suo parente contribuisca, può chiederglielo e il parente può farlo o non farlo, se il nonnino è particolarmente arrabbiato può far causa anche al figlio, ai parenti tenuti agli alimenti che non contribuiscono. La cosa che è certa e che è già stata sanzionata anche da numerose sentenze della magistratura è che gli enti locali non possono, al posto dell'anziano o del suo tutore, se l'anziano è in tutela, chiedere contributi ai parenti. Benissimo, questo è chiarissimo. Io la fermo un attimo, assessore Migliasso, e la ringrazio veramente per il suo intervento, è stata chiarissima. Onore alla regione Piemonte. Brusco, è il Veneto, la regione Veneto invece cosa fa? Dorme oppure... La regione Veneto fa esattamente l'opposto. Ah, la regione fantastico. Veneto fa pagare non la regione Veneto, ma le case di riposo, certo, i comuni. Fanno pagare l'integrazione della retta anche ai familiari, citando spesso l'articolo 433 del codice civile e dimenticandosi quella che è la norma, cioè la legge 328 del 2000. Il fatto è che questo problema va avanti dal 2000, cioè quando è stata approvata la legge, per cui è un problema pluriennale, c'è un'omertà per cui in mancanza dei soldi i comuni restano zitti, tanto pagano i familiari che sono abituati a pagare. Bisogna rompere questa catena. E noi, caro Brusco, siamo qui proprio per interrompere questa catena di omertà, una parola che detesto, la parola omertà, quindi la ringrazio per questa sua battaglia di civiltà, così come ringrazio anche l'assessore Migliasso, gli ospiti che abbiamo avuto ieri, ma continueremo sentendo un sindaco e cercando di capire come si comporta un sindaco su questa vicenda che mi pare abbastanza annosa, come si diceva una volta. Grazie in regia Pietro Lacorte, in studio Laura Faggin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.